persona è fantascienza, insomma. In passato si era proposto anche di rifare il referendum, però le ultime elezioni che hanno portato poi alla riconferma di Boris Johnson hanno fatto capire che sostanzialmente la maggioranza dei cittadini e delle cittadine britanniche hanno comunque continuano a volere la Brexit. Confermi? Confermo, ad eccezione di Londra. Quindi io sono a Londra, devo dire, vivo in una bolla e ho vissuto in una bolla anche per le elezioni. Quasi non ci aspettavamo che i Tories avessero di nuovo questa maggioranza così schiacciante, quindi è ancora più surreale viverlo da qua, perché i cittadini britannici che sono a Londra sono più per il Remain, c'è una comunità internazionale fortissima, quindi è strano. Chiaramente se poi esci vai al nord, confermo che loro vogliono ancora il Leave, e soprattutto c'è una rivendicazione molto nazionalista su questo, c'è tanto orgoglio, anche se a Londra comunque la sera del 31 gennaio in piazza del Parlamento c'era Farage che festeggiava con una schiera di persone che sventolavano la bandiera della Gran Bretagna e la bandiera dell'Inghilterra, che è un simbolo abbastanza nazionalista qua, e quello fa un po' impressione. Potrebbe essere che come dire, qualcosa cambi o comunque il dibattito si rinfocoli per quanto riguarda la Scozia e l'Irlanda del Nord. Sì, decisamente, e infatti quello che poi si dice qua è che mal che vada si va in Scozia. Si dice un po' come battuta, però fa pensare che comunque potrebbe essere anche un nuovo scenario, ecco, per l'Europa e per la circolazione. Quindi insomma è una partita aperta quella dell'indipendenza scozzese? Sì, è una partita aperta e loro la vogliono tantissimo. Io ti parlavo prima delle manifestazioni in piazza la sera del 31, se da una parte c'era Farage con i nazionalisti, dall'altra c'erano gli europeisti e c'erano gli scozzesi con le bandiere scozzesi a fare una sorta appunto di protesta unita.